Allora, ciao a tutte, ciao a tutti, grazie di essere qua. Questo è l'ultimo appuntamento di un ciclo che abbiamo cominciato come coordinamento più di un anno fa e che abbiamo intitolato Paradigma della violenza non violenza, perché pensavamo fosse molto importante smontare questo tipo di paradigma che questo sistema usa continuamente per demonizzare qualsiasi tipo di alterità politica. Anche il semplice dissenso viene trascinato in una sfera delinquenziale e quindi viene tolta ogni valenza politica e viene demonizzato e viene usato proprio per porre il sistema come garante di una democraticità e di una normalità nella gestione dei rapporti tra le parti che dovrebbe condurre alla eliminazione della conflittualità sociale. Questo paradigma è costituito da tutta una serie di modalità che il sistema mette in atto e quindi noi abbiamo cercato attraverso tutta una serie di passaggi di recuperare questi momenti e di smontarli. Uno è stato quello del recupero della storia e della memoria e quindi abbiamo cercato di parlare di quei gruppi di donne, femministi o non femministi o comunque che hanno fatto azioni armate, che hanno portato avanti non necessariamente azioni armate, ma comunque azioni di disubbidienza, di contrasto a questa società. Per esempio abbiamo analizzato la storia delle militanti del Black Panther Party e la storia delle Rote Zora, che sono un gruppo femminista tedesco di guerriglia urbana femminista, che completamente, per esempio le Rote Zora sono state completamente dimenticate e silenziate, ma avevamo cominciato anche prima a fare un discorso, diciamo ancora qualche mese prima, con un'iniziativa sulle Mujeres Libres e le militanti del PUM nella guerra civile spagnola, che è più o meno un percorso dello stesso tipo. Dopodiché abbiamo cominciato a renderci conto che bisognava definire in maniera molto precisa l'aggressore e l'aggredito, lo sfruttato e lo sfruttatore, perché anche sia sul fronte interno sia sul fronte esterno, perché anche qui il sistema tende sempre a riportare a un sereno confronto fra le parti quello che invece è sfruttamento organizzato. E quindi uno degli altri passaggi è stato quello di andare a vedere i rapporti dell'Occidente con il neocolonialismo, con le guerre neocoloniali e quindi questa democraticità che noi esportiamo e queste democrazie umanitarie che cosa sono invece. Un altro momento importantissimo nella costruzione del paradigma della violenza non violenza è la mitizzazione della legalità. L'illegalità diffusa è un mito che ormai è assolutamente impensabile nel comune sentire e la legalità è stata addirittura divinizzata, cioè tutto quello che è legale è buono, tutto quello che lo Stato ci pone e ci propone, questo sistema ci pone e ci propone come legge è santificato e questo purtroppo è passato tantissimo nel comune sentire. Tant'è vero che uno degli altri punti che abbiamo preso in considerazione è quello dell'egemonia culturale. Uno dei problemi che noi abbiamo è quello di smontare l'egemonia culturale che è stata costruita in tutti questi anni e che è un'egemonia culturale, un comune sentire di stampo fascista, al di là delle belle parole e di quello che può portare avanti quella che noi chiamiamo la socialdemocrazia riformista col politico politicamente corretto, con tutto un sistema di diciamo di modalità etiche fra virgolette che ha portato avanti, ha costruito un comune sentire invece di stampo prettamente fascista, cioè ha messo il povero contro il povero, il cittadino normale contro il diverso, ha costituito una legalità riconosciuta e una normatività riconosciuta che praticamente mette immediatamente in contrasto tutte le parti che non si riconoscono in questa normalità, le demonizza e quindi è fonte di razzismo molto spinto, perché quello che succede sul fronte esterno, cioè il fatto che uno porta le guerre neocoloniali all'esterno e quindi noi come Occidente ci poniamo come i depositari della democrazia, della difesa dei diritti umani e compagnia belle, quindi immediatamente si pone una gerarchia tra l'Occidente buono e i popoli che non si sanno governare, viene poi trascinato anche sul fronte interno, per cui chi è povero è uno che non si è saputo vendere, che non sa vivere, che non sa stare in questa società, ed è una sorta di razzismo, cioè è una sorta di pelle nera sociale, non di pelle nera effettiva, ma di pelle nera sociale. E quindi queste due cose si sono collegate e si rimbalzano. Quindi è necessario smontare il meccanismo della mitizzazione della legalità, della mitizzazione della norma. E poi abbiamo provato a indagare dei percorsi di uscita, per esempio di autodifesa, di auto-organizzazione. Abbiamo fatto dei laboratori di autodifesa femminista che potevano essere una risposta, se non altro nel nostro ambito, e parziale a un tentativo di incastrarci in questa diciamo tendenza alla vittimizzazione, alla delega, alla riproposizione, seppur in maniera diversa, di tutta una serie di ruoli. Allora, noi siamo arrivati alla fine, al settimo appuntamento, che vorrebbe essere un tirare le fila di tutto quello che ci siamo dette in tutti questi appuntamenti passati, e abbiamo scelto un argomento, adesso passerò la parola a Margherita che ce lo racconta, un argomento che è la militanza, perché il nostro percorso femminista prima di tutto è un partire da noi, e quindi noi abbiamo cercato di reimpostare e rivisitare e rileggere e domandarci, partendo da noi, che cosa significa tutto quello che ci siamo detti finora come femministe. Grazie Eli. Posso lasciarlo qua? Sì, sì. Perché chiudere con la militanza? Perché il ciclo che ha raccontato Elisabetta in maniera più articolata alla fine aveva un senso specifico diretto anche poi all'azione politica, cioè la traduzione di un pensiero anche, no? In delle forme organizzative, programmatiche, in un orizzonte possibile poi di azione. E quindi questo senso di ragionare sul paradigma violenza non violenza è anche un modo di chiedersi come fa il femminismo oggi a essere veramente radicale e di rottura, visto che in realtà tante lotte femministe sono state invece sussunte e diciamo riportate nei ranghi, no? C'è una fortissima componente del femminismo borghese, che un tempo si definiva borghese, che ormai va per la maggiore, ci sono dei fenomeni molto mediatici, campagne che riducono il patriarcato a un affare culturale, no? E che cercano di spostare il discorso della lotta femminista, della politica femminista, su un piano discorsivo più che invece di lotta. E quindi abbiamo pensato, chiudiamo questo ciclo, no? Preso a scavare nell'esperienza del passato e a riprendere un po' quella che è la tradizione invece femminista antagonista, con un discorso sulla militanza, perché anche questo viene da un po' più lontano. Femminista come compagna, come compagno, significa innanzitutto decidere da che parte stare. Allora, per esempio, anni fa ci sono stati dei 25 aprile che anche insieme a molti compagni che sono qua abbiamo fatto insieme alle lotte che in quel momento c'erano, con i lavoratori di Rama Marlene, i lavoratori della logistica, perché mentre tutti il 25 aprile fanno le sfilate commemorative in cui però di antifascismo non si parla, ma si parla di fondazione della Repubblica e di, come dire, criminalizzazione degli opposti estremismi, e quindi in piazza sfilano i fascisti, perché il PD ha dei connotati fascisti e autoritari ormai che non si possono non vedere, insomma, negare. Allora abbiamo detto no, che vuol dire essere partigiano? Significa aver scelto la propria parte, no? Allora, per scegliere la propria parte però bisogna partecipare innanzitutto alla vita collettiva, sociale del mondo. E qua entrano i nostri problemi dell'attualità, perché che mondo è il nostro? È un mondo in cui non si capisce molto bene cos'è la destra e cos'è la sinistra, per citare una vecchia canzone, no? Cioè, questo mondo che esce da 20 anni, 30 anni di pacificazione, di egemonia culturale neoliberista, è un mondo dove manca l'alternativa. Una volta che le esperienze comuniste si sono concluse, e si sono concluse, diciamo, in recessione, come si può dire, allora il capitalismo non ha più bisogno di fare un discorso di parte, no? Il suo potere non lo esplicita più attraverso dei discorsi che hanno un connotato ideologico ben definito, cioè ce l'hanno ancora, però è più difficile da interpretare, no? Non fanno discorsi di parte, ma invece usano argomenti come imparzialità, efficienza, problem solving, competenza tecnica, è su questo che si fonda adesso il potere. E purtroppo crediamo, insomma, che anche il contropotere stia assorbendo questo linguaggio, forse senza rendersene conto. E in questo mondo, quindi, in cui queste parole sono entrate, cioè per farvi degli esempi, in questi 30 anni di egemonia culturale e pacificazione, come ci troviamo? Ci troviamo che usiamo parole al posto di altre e non le sappiamo più significare. Vi faccio degli esempi su cui abbiamo lavorato tanto. La meritocrazia, cioè l'abbiamo assunta anche noi, il movimento degli studenti, uno degli ultimi che ci sono stati, no? Che sono esperienze che io personalmente mi dimenticherò fino alla morte, però comunque abbiamo avuto un problema 10 anni fa a capire che uno dei terreni su cui lottare era la critica alla meritocrazia, no? Perché alla fine l'abbiamo tutta un po' introiettata come una forma di gestione del potere, anche là, imparziale, trasparente, perché la concorrenza, la competizione, no? In maniera così aperta, e non vediamo che invece è un meccanismo di selezione di classe la meritocrazia, e che non è che è sempre stato assunto, no? Come paradigma di una buona gestione del potere. E questo sulla meritocrazia. Parliamo di riformismo, no? O di riforme, però mi sembra che anche qua, prima mi diceva un compagno, sì, le riforme senza soldi si chiamano tagli, no? Ed era molto chiaro 30 anni fa. Oggi invece, cioè, parliamo di riforme come se la riforma costituisse o potesse costituire un avanzamento delle condizioni materiali dei lavoratori. Non è così. La riforma è un processo strutturale e sempre permanente, diciamo, di ristrutturazione del capitale ai nostri danni, ai danni delle classi subalterne. Quindi se parli di riformismo, non parli di diciamo, non so, un modo di lottare un po' più annacquato di un altro, stai proprio dall'altra parte. Non è che stiamo dalla stessa parte della barricata, ma con, diciamo, intensità di conflitto diverse. Altre cose che sono state completamente recentemente leggevo, che adesso noi, per, insomma, anche teorici che sono dei riferimenti per i movimenti, tutti parlano delle rivoluzioni comuniste e socialiste che in America Latina si sono prodotte 20 anni fa come movimenti progressisti e di sinistra. Ma che linguaggio è progressisti e di sinistra? Cioè, io non sono progressista, cioè, e neanche quelli erano progressisti, erano, se non vogliamo dire comunisti, almeno socialisti. Poi veniamo al campo nostro proprio. La violenza contro le donne, diciamo tutti quanti, è un affare strutturale, no? Però poi appunto trasciniamo, cioè il patriarcato no, non è una struttura socio-economica, non è, ma è un affare culturale. Quindi che dobbiamo fare per combattere la violenza contro le donne? Parlare con le guardie, parlare con gli uomini violenti, parlare con i magistrati, no? Perché se effettivamente se la butti sul culturale, allora riparliamone, parliamo un po' di tutto, no? Rimettiamo. Poi, altri esempi, sempre nel nostro campo si usa sempre di meno la parola compagna, l'abbiamo scritto anche nella chiamata, no? E si usano altri modi, attivista, che vale anche per i contesti misti, ma sorella, amica, perché sono termini che non costringono a una presa di posizione in senso di classe, no? Io sono una compagna femminista, non sono una sorella, così indistintamente perché siamo della stessa generazione, siamo dello stesso genere. Così è un linguaggio depoliticizzato che permette di tenere insieme delle anime che in realtà non possono stare insieme. E l'ultima, diciamo, l'ultimo esempio è appunto quello che dicevo prima su questo problema di problem solving, competenza tecnica, expertise, chiamatela un po' come vi pare, ma il succo non cambia. Cioè i movimenti, mi sembra, ormai, invece che creare il problema, cercano un po' di mettere le toppe. Cioè lo so che stiamo in un mondo molto difficile, perché tutte le nostre esistenze individuali sono isolate, precarie, no, stiamo tutti un po' così, però pensare che l'azione politica, il conflitto politico debba risolvere un problema che ci viene creato, no? Invece che farlo esplodere quel problema, e pensare che la legittimazione del tuo intervento politico è la competenza specifica che tu rivesti, cioè ormai siamo pieni di iniziative più o meno pragmatiche che, in cui le chiamate dicono parleranno gli esperti dei movimenti femministi, gli esperti della lotta contro la violenza sulle donne, e noi veniamo invece da un percorso completamente diverso. Cioè il femminismo, anzi, è uno dei punti proprio fondamentali, quello di non delegare all'esperto, no? Lo diceva anche Elisabetta prima, e invece attraverso questa assunzione anche noi della competenza come legittimazione della nostra azione politica, poi finiamo per mettere in campo delle forme di lotta che sono assistenzialiste, no? Cioè perché ci specializziamo nell'assistenza di qualche problema a qualcuno, oppure anche, cioè, e poi anche un po' collaborazioniste purtroppo, perché non è che la buona fede è data, diciamo, per scontata fino a buona a prova contraria, ma non importa se sei in buona fede o no, perché la tua azione non confligge, è perfettamente integrata e integrabile, anzi, cioè, il problema del terzo settore penso che sono 30 anni, no? Che tutti sappiamo che cos'è il terzo settore, cioè è tutto quel panorama appunto di associazionismi vari che risolve un problema agli stati che hanno tagliato il welfare, che hanno tagliato lo stato sociale e buttano su di noi, no? E noi gli risolviamo i problemi, non li ricreiamo. E quindi dentro a questo panorama non è che abbiamo ovviamente le soluzioni e le chiavi di forme di lotta che invece siano veramente conflittuali, però ci è sembrato allora che partire dall'interrogare le pratiche che mettiamo, no? un po' in chiave autocritica, insomma, un po' invece anche di riscoperta di quella che è una potenza invece della tradizione a cui vogliamo riferirci, è un momento per smetterla di autosabotarci. Allora, che significa questo? Interrogare se stessi come corpo militante, chiedersi, no, io sono, non significa colpevolizzarci, cioè non è che stiamo qua a dire ai compagni non si deve andare a lavorare perché in qualsiasi posto di lavoro vai ti comprometti, perché tutti quanti facciamo i nostri compromessi e tutti quanti viviamo delle scissioni. Io personalmente, per esempio, cioè, vado al lavoro, sto all'università, non c'è più niente, diciamo, di politico all'università, vado al lavoro e sono molto remissiva rispetto a quello che vorrei essere. Io non riesco ad articolare i miei no sul posto di lavoro, no? E poi esco da là e voglio fare la militante, oppure vado a chiedere ad altri lavoratori di lottare sul loro posto di lavoro. Non sono esente da queste contraddizioni, nessuno lo è, no? Quindi non vogliamo stare qua a dire facciamo i duri e puri, basta, rompiamo tutto, perché i tempi forse non sono maturi, però guardiamole queste cose. Quindi quali sono i meccanismi di autosabotaggio che penso dovremmo interrompere? Che quando ci sono due punti: uno, tornare a fare un po' di polemica sui contenuti, però. Cioè, molto spesso nelle assemblee politiche, almeno tutte quelle che ho attraversato negli ultimi 10 anni, non si confligge politicamente. Cioè, se due compagni o due compagne non sono d'accordo sulla linea politica, ci sono 3 strade per uscire da quel conflitto. O si butta sul personale, cioè quello è un problema che viene ridotto a uno scazzo amicale o personale tra le due persone. O si butta sul metodo, non è questa la sede, non sono questi i toni, non è rilevante, no? E non si parla mai della questione, oppure si violano le più elementari regole della logica del discorso, per cui si parla come tra sordomuti, non ci si capisce e così si evita il conflitto. Allora, come lo dobbiamo esercitare al di fuori? Forse questo conflitto ce lo dobbiamo accollare pure un po' noi al di dentro, perché non possiamo far finta di essere tutti d'accordo, però poi ognuno si fa gli orticelli suoi, no? E se ne sta rinserrato nei suoi ranghi. L'altro autosabotaggio invece è quello di praticare un po' di onestà intellettuale, cioè quando si sostiene una certa linea politica o una certa linea di azione, diciamo, programma, farlo perché si crede veramente che quella sia la strada più, cioè che possa efficace, diciamo, per generare una rottura di questa normalità, no? Del nostro quotidiano e anche in termini più estesi, magari, no? Come movimento più di massa. Non invece, come spesso ci troviamo tutti a fare, sostenerla perché è la più integrabile nella nostra vita, perché è la più comoda, perché è quella che in quel momento riusciamo ad accollarci. Allora si può anche fare un altro discorso, dovremmo fare questo, non abbiamo le forze e allora facciamo quest'altro, ma non dire che l'altra azione è buona di per sé. Quindi questi sono gli interrogativi, diciamo, con cui vi lasciamo a questo film che abbiamo pensato appunto un buon modo per introdurre soltanto l'apertura di una discussione senza nessuna soluzione, cioè speriamo che possa andare avanti a lungo tempo questa, un rinnovato dibattito, però per evitare di svegliarci fra altri 20 anni di pacificazione e rendersi conto non solo non si è fatto niente, ma si è lavorato anche contro noi stesse, cioè contro le possibili strade di liberazione, contro i nostri stessi desideri di liberazione, no? Per così integrarci, forse troppo prese dal nostro isolamento. Perdonami, posso aggiungere soltanto una cosa quando parlavi Certo. del terzo settore, per esempio, che viene chiamato a risolvere i problemi della società, delle fasce, eccetera? Effettivamente mi veniva in mente che per troppo tempo, io stessa che nel terzo settore ci ho operato parecchio, noi tutti, noi donne o noi persone con disabilità, veniamo chiamati tutti quanti persone con delle fragilità. E questo è un altro termine che ormai abbiamo tutti introiettato, cioè io stessa penso sempre a una categoria con fragilità, eccetera. Forse è vero, basta con pensare che siamo sempre solo e in tutte le occasioni persone con delle fragilità, ma anche con delle forze che invece vanno esercitate, e proprio con questo risveglio che dicevi tu, cioè di non sempre forse a volte autogiustificarci dicendo ah no vabbè, magari la lotta o la dobbiamo rimandare oppure questa non è la sede oppure cerchiamo l'accordo, ma ogni tanto il disaccordo e la lotta va cercata, il punto di frattura che poi porta magari a qualcos'altro, e questo forse passa anche nel non dover sempre accettare di essere soltanto persone fragili. Io volevo dire due parole sul film. È un film documentario del 1970, è un film documentario del 1970 del gruppo Zigaverzob, scusate la pronuncia, ma penso si dica così, e parla, è diviso in tre parti. Noi prenderemo soltanto la parte centrale perché è la parte che parla della militanza attraverso le parole di una compagna. E quindi è una sorta prima di analisi e poi di tentativo di risposta. È per questo che noi l'avremmo proposto poi al dibattito e alla verifica, proprio perché lascia aperti tutta una serie di interrogativi. Allora, dopo aver visto questo film è chiaro che noi l'avevamo già visto e ci siamo fatte abbiamo fatto delle deduzioni, delle riflessioni, abbiamo fatto dei ragionamenti sopra. Quindi vi facciamo partecipi un attimo di questi ragionamenti che ci siamo fatte, ma ci farebbe piacere anche sapere poi che cosa ne pensate voi? Allora, io un anno che ho visto questo documentario, quindi diciamo che è un anno che ragioniamo un po' tutte quante su che cos'è la militanza per noi. E almeno io personalmente non sono riuscita, cioè ho avuto un po' da pensare e non sono sicura di essere arrivata a una sintesi finale, però insomma mi sento come lei nel film, insomma, dalla prima parte alla terza parte c'è stato in qualche modo una crescita e un miglioramento, almeno quello che mi sento. Per me la sintesi è sempre trovare quello che poi nel film si vede bene, no? Cioè dalla propria vita quotidiana e quello che poi è la militanza. Ovviamente secondo me nei confronti di quello che è il documentario c'è anche da dire che quelli erano gli anni 70, anche un periodo storico in cui effettivamente anche la percezione di sé nella collettività e di quello che c'era attorno era diciamo un po' più positivo, almeno per come la vediamo noi militanti, insomma le compagne femministe, quello era un periodo insomma di grande lotte e dove effettivamente le vittorie erano palpabili. Dal nostro punto di vista ovviamente no, siamo in un momento in cui cioè, nel senso la botta è stata presa e rialzarsi è abbastanza complicato. Le domande non sono solo su quello che è la nostra militanza per noi stesse, quanto anche che cosa fare, un po' come diceva Margherita, cioè da dove riprendere, no? Dove ricominciare, anche a quali lotte scegliere, come declinarle poi sul concreto. Però togliendo anche questo, cioè nel senso partendo dall'esperienza un po' personale, una domanda che mi sono sempre posta, no, era quella del ma davvero la militanza è per forza quella che ci porta a fare quasi un lavoro, cioè nel senso a spendere tutto il nostro tempo e occupare tutti i nostri spazi con assemblee fiume, con pratiche che comunque ti dissociavano dalla società, e in questo ci ho visto un po' quello che faceva lei, no? Cioè come se pensare di avere alcune pratiche che un po' sono velleitarie a volte, no? Perché in questo momento alcune lo sono, altre no ovviamente, e che per esempio quando lei va nella fabbrica a lavorare pensando, no, di trovare la quadra, no, di tutto. E io mi ritrovo un po' così, insomma, su come ci si vive la militanza. Un'altra cosa che secondo me è importante per oggi è quello del fatto che all'epoca non c'era il problema di definirsi compagna, un po' quello che dicevano sia Elisabetta che Margherita all'inizio. E per esempio, cioè a me una cosa che sconvolge parecchio è quella dell'utilizzo della parola attivista, che a me aborre, cioè nel senso è veramente una cosa che non mi trovo, perché un po' la lego proprio a quel terzo settore, no, dell'associazionismo, e quindi io sono attivista di un'associazione. E quindi penso, vabbè, ovviamente al neoliberismo che tenta, no, di depotenziare le lotte, no? Come un po' la goccia cinese, piano piano ci è riuscito e quindi si è riappropriato dei linguaggi, li ha tolti, li ha depotenziati, anche perché poi leggevo qualche giorno fa un articolo di un X persona di una di queste ONG gigantesche, no, che per i diritti umani, che parlava proprio del ruolo dei militanti delle associazioni, e a me ha sconvolto perché cioè siamo arrivati proprio all'opposto. Cioè addirittura la parola militante ha senso esclusivamente, almeno per il senso comune, solo se si riguarda battaglie che però stanno negli argini della difesa dei diritti umani, nella difesa dei valori, diciamo, sociali dominanti, però. Cioè nel senso tu puoi agire però solamente se rimani in quel percorso, ovviamente se svicoli di qua e di là o il tuo obiettivo è un altro, no, neanche tu puoi essere definito militante. Cioè il militante è diventato questo, il militante è quello del partito, è del PD, capito? Cioè nel senso loro si definiscono militanti, noi siamo diventate attiviste, e questo mi sconvolge e mi mette un po' in critica e mi mette appunto in un tentativo di trovare anche la soluzione, perché penso, va bene, ci può anche essere che il linguaggio si evolva, no? E che quindi dei termini uno possa utilizzarli diversamente, ne trovi anche altri, ma non è successo questo, non c'è stato un lavoro da parte delle compagne, no? Di ristrutturazione del linguaggio, come poi riguardare altri argomenti invece su cui, no, un dibattito c'è stato e qualcosa si è anche portato avanti, ma è stato qualcosa che noi abbiamo subito completamente, quindi è il valore dominante che ci ha completamente ribaltato. Ovviamente con tutto questo, come spesso abbiamo detto in tutte le iniziative affrontando da vari punti di vista, è avvenuto in maniera molto molto fluida e non attraverso un attacco, che forse è quello che ci mette più in crisi in quanto militanti, almeno io sento quella molto come crisi, perché non c'è più un nemico facile da riconoscere, e quindi non sapendo riconoscere il nemico spesso mi vedo che è impossibile riconoscerlo, cioè ormai si è perso questo nemico, non si sa più dove sta, spesso si scambia per qualcos'altro, come quando da piccoli vedevi una cosa buia e ti spaventavi, però non avevi paura del buio, no? Magari c'erano altri motivi. E lo stesso, io mi sento molto così, cioè nel senso che siamo presi da problemi che non sono problemi, e quindi mi sento integrata, no? In quello che ovviamente prima si poteva definire società borghese, ora è distrutta anche questa, perché c'è stato col neoliberismo una ricostruzione differente, lì magari i nomi sono cambiati, cioè nel senso posso non ritrovare più il concetto di borghesia, di proletariato nella maniera in cui veniva definita negli anni 70, però comunque ho trovato dei vocaboli, un linguaggio per ristrutturare il mio pensiero politico. Invece rispetto alla militanza, tutto questo, cioè, tutto questo ragionamento e questo lavoro non c'è stato. Ripensavo pure a quando sono rimasta incinta, no? Che mi venne fatta questa critica che all'inizio mi ha anche buttata abbastanza giù, cioè nel senso come una compagna che spesso ha parlato di contro il lavoro di cura, e di rifiuto della maternità e quant'altro, fa un figlio. E lì per lì mi sono sentita un po' attaccata, ovviamente, perché era come se, non so, oddio, ho tradito le mie battaglie, ho fatto qualcosa che non dovevo fare, ma dove ho la testa, cioè, non lo so che cosa ho fatto. Se non che poi ovviamente questa domanda però mi ha fatto porre delle mie domande, cioè nel senso, se io ho un desiderio, intanto non penso che ad oggi ci possano essere delle regole ferree da seguire, e quindi il fatto che io possa pormi in un discorso dialettico dove prendo in analisi il rifiuto della maternità e quello che ha comportato e cosa diceva, perché è nato quel discorso, cosa viene messo in discussione con il lavoro di cura, e se questa sintesi poi che avviene in me comporta effettivamente totalmente il rifiuto della maternità oppure no, seppure il mio desiderio di provare quella sensazione può vincere, ma non è una contraddizione sicuramente, però non è una contraddizione come può essere la contraddizione tra l'essere, lei dice, tra l'essere borghese e l'essere militante. Secondo me riguarda un altro livello, cioè io non tradisco il mio essere militante se dico che rifiuto la maternità in quanto, no, cioè in quanto fa parte di una ruralizzazione sessuata, fa parte di una struttura economica capitalista in cui io vengo fiondata. E poi in realtà un'altra cosa che mi è venuta in mente era che, appunto, cioè nel senso, ok, per alcuni, io in quanto femminista quelle domande me le pongo, in più però l'essere militante da madre, no? Perché poi è possibile? In realtà non sempre, ma non perché io non riesca, è perché proprio io non mi ritrovo assolutamente, proprio fisicamente non mi ritrovo in quello che avviene all'interno dei compagni, cioè non c'è spazio, ma come per me, come non c'è spazio nel filmato, nel lavoratore, no? che magari sta studiando, lavora, come quando lei parla del sesso e dice sì, però l'operaio non se lo può permettere, perché magari se fa il turno notturno di pomeriggio dorme, no? E io mi sento un po' così, cioè come se le mie possibilità, le mie capacità di questo momento, di questo periodo della mia esistenza non siano assolutamente compatibili, e che non ci sia e non venga presa in considerazione praticamente da nessuno, compagni e compagni, di mettere in discussione determinate pratiche, no? È un po' come riprendere e cercare quali possano essere le battaglie da portare avanti, quali sono magari esclusivamente vertenziali, quali invece potrebbero avere, no, un obiettivo più grande, quali si muoiono lì sul momento e quali invece mi danno un ampio respiro. E io mi ritrovo nello stesso punto, cioè se non i compagni, i compagni non sono in grado di mettere in critica addirittura le modalità in cui, no, si fa politica, è ovvio che c'è un'esclusione, e quindi anche questo è secondo me un piano che va preso in considerazione in quello che è la militanza, perché la militanza è anche una modalità in cui si porta avanti, no? Quindi queste sono le varie domande a cui ovviamente non ho una risposta. E scusatemi, mi ricordo un attimo gli appunti. E penso che non un'altra cosa che mi viene in mente quando penso alla militanza è la critica, no, da chi non fa attività politica, che è quella: ma chi te lo fa fare? Cioè, dove vai? Qual è il raccolto che porti poi, no? Come se fosse una cosa, no, che in teoria dovrebbe portare qualche raccolto, cioè nel senso, magari non nell'immediato proprio adesso, però dovrebbe, la militanza in realtà dovrebbe avere questo scopo. E quindi la domanda che mi viene fatta, no, da X persona, che ma che cosa ti porta, effettivamente è una domanda concreta e giusta da porsi, no? Perché è ovvio che non è che devo avere il ritorno immediato della mia battaglia, però sta battaglia da qualche parte mi dovrà pur portare, cioè io un obiettivo ce lo devo avere, per cui mi ritrovo spesso che le battaglie che portiamo avanti sono di tipo quasi assistenziale o proprio lì sul momento, e sono molto di pancia. Invece un po' come, cioè, mi veniva pure da ridere mentre lo pensavo, no? Prassi, teoria prassi, è pancia, cervello, pancia, però, cioè nel senso, o il contrario, però insomma in qualche modo poi questo moto di pancia lo devi elaborare in modo tale che porti a una concretezza politica, perché se no in realtà questo tipo di militanza che portiamo avanti, che continuiamo a fare, che addirittura non chiamiamo nemmeno più così, per me diventa frustrazione. Cioè una militanza H24 senza uno scopo, ma semplicemente che è riempitiva del tempo e degli spazi, che ha un po' di ghettizzazione, a me comincia a farmi diventare una persona frustrata. È ovvio che non è un problema solo mio, è un problema collettivo, è un problema che sicuramente abbiamo, soprattutto per quello che dicevamo all'inizio, cioè l'egemonia culturale ormai ha, piano piano, come la goccia cinese, ha completamente cambiato il linguaggio, ha cambiato la faccia del nostro nemico. Noi quindi effettivamente ci troviamo in un momento, secondo me, in cui tutto è ribaltato, niente ha più quel senso di prima, e soprattutto non c'è più nemmeno un senso di comunità, che portava anche a quello che è il contrario, no, della legalità forte che c'è adesso. Cioè la comunità faceva sì pure che l'illegalità non pesasse così tanto. Se io non pagavo il biglietto dell'autobus non c'era un problema, capito? Poteva anche essere un gesto, magari non da militante, semplicemente un gesto che però era un gesto collettivo, era un gesto di tutti. Adesso è capace che se ti trovano senza biglietto è la gente che te lincia sull'autobus. Cioè, quindi è anche quello, no? È anche trovarsi immersi in tutto questo, secondo me, necessita di rimettere a discussione, rimettere un po' i punti su quello che è la nostra militanza, su come farla, su quali sono i nostri obiettivi e su quali sono i nostri percorsi per ricostituire tutto questo. Cioè se noi non partiamo da noi stesse non avremo mai questa risposta, anche se parziale, e non riusciremo mai a ricostruire qualcosa, e quindi in realtà staremo sempre a rincorrere un po' come il criceto dentro la ruota. Fai delle cose perché devi farle, fai il volantinaggio, fai l'attacchinaggio, fai l'assemblea, e chiami la convocazione perché c'è stato l'attentato contro il compagno che è stato aggredito, contro la compagna che ha subito quello, contro il lavoratore che è stato licenziato. Però forse c'è un momento in cui tutto quello che noi siamo va un po' rimesso approfitto, ma approfitto per quello che è, che è il nostro obiettivo, per la nostra militanza. E quindi vabbè, questo era un po' quello che a me ha scaturito questo filmato e un po' tutte anche le varie discussioni che ci sono state. Volevo dire una cosa molto breve rispetto al film, cioè in pratica quello che viene fuori e che è di grande attualità è il tipo di approccio che dobbiamo avere noi nella lotta, nel senso che non ci sono dei soggetti particolari da combattere, ma un insieme di norme, un insieme sistemico. Il modello produttivo diventa metabolismo sociale, quindi questo metabolismo sociale è quello che poi costruisce anche i nostri pensieri. Allora, in questo momento storico in cui l'ideologia dominante è quella neoliberista, il neoliberismo ha costruito il nostro, anche il nostro modo di militare, attraverso la destrutturazione di tutta una serie di concetti, compreso quello della militanza, facendone passare altri, facendo passare la convivenza civile, facendo passare il sereno confronto, facendo passare anche il sereno confronto tra i sessi, cioè nel nostro specifico come femministe dobbiamo trovare punti di confronto, punti di accordo, capirci, metterci in discussione e comprendere. Quindi quello che noi dobbiamo combattere è questo sistema generale di normatività su cui si fonda questo sistema. E i punti nodali non è che sono difficili da individuare, sono la militarizzazione dei territori e il controllo sociale, cioè sono quelli che hanno i nodi che hanno costruito questo modo di sentire, sono quelli che noi dovremmo mettere in discussione, cioè la militarizzazione dei territori e il controllo sociale, che poi significa nella pratica io è inutile che faccia le manifestazioni, non lo so, antifasciste, non voglio i militari nelle strade. È quello che io non voglio, non voglio i militari nelle strade, non voglio il controllo della metropolitana, cioè la risposta concreta a un'imposizione concreta che è stata fatta deve essere molto politica e anche semplice, immediata. Il concetto di legalità, il concetto di legalità è un cardine. Quindi il tentativo nostro dovrebbe essere di ripristinare l'illegalità diffusa all'interno del comune sentire, e passa anche questo attraverso delle cose molto semplici: il biglietto sull'autobus non si paga, nessuno dovrebbe pagare le bollette, i ticket, le tasse. La meritocrazia, cioè nei posti di lavoro, non si dovrebbe mai accettare il percorso meritocratico, ma battersi per il percorso uguale per tutti, battersi contro i tornelli, cioè è inutile battersi per i 10 euro in più al mese o per un ticket pranzo in più o in meno. È il tornello, è il controllo dell'orario, è il controllo del tempo, è il controllo della vita che ha impostato questo metabolismo sociale che noi dobbiamo smontare. Ci sono delle cose molto precise su cui si è costruito questo modo di sentire. L'infantilizzazione e la delega, cioè l'incapacità di gestire le decisioni in maniera autonoma come gruppi e sempre chiedere invece fare i percorsi di rapporto con lo Stato. No, perché il neoliberismo ha chiuso il rapporto di mediazione in maniera unilaterale e drastica. È inutile, anche volendo, che uno faccia, chieda e si rapporti come ci si rapportava una volta e si cerchi la mediazione con le strutture di Stato. Lo Stato, questo tipo di sistema, ha chiuso la mediazione. Quindi noi di questo non solo dobbiamo prendere atto, ma dobbiamo farcene un punto di forza. Allora, non sono cose difficili, perché sono cose cioè non è che una deve fare delle cose stratosferiche, ma in questi momenti precisi deve operare una scelta di parte. Cioè, quando una sceglie il tornello o non tornello, è una scelta di parte, è una scelta politica, non è sì, vabbè, sì, non vabbè. No, in questo momento è una scelta di parte, quella che diceva Margherita all'inizio, che essere partigiane vuol dire scegliere da che parte stare. È così, il concetto di militanza è scegliere da che parte stare. E in questo momento, anche all'interno del gruppo donne, noi siamo una classe, tra virgolette, tutte sottoposte a violenza e tutte sottoposte a oppressione. Però in questo momento la classe donne è attraversata mai come in questo momento dalla classe, perché c'è chi supporta questo tipo di sistema e chi lo subisce. Chi supporta questo tipo di sistema sta dall'altra parte, finché non capirà che per liberare se stessa dall'oppressione di genere deve passare di qua, sarà sempre dall'altra parte della barricata. Quindi, per esempio, il rifiutare l'interclassismo è fondamentale. Non si possono fare le lotte nel nostro piccolo con tutte le donne, perché l'interclassismo è dare stura a questo tipo di società neoliberista. Scegliere da che parte stare e mettere un granello nell'ingranaggio. Insomma, non sono, almeno io ho fatto questo tipo di denuncia. Passo la parola a chi la vuole prendere. Come si fa a far arrivare, cioè, nel senso che qua alla fine penso che mi sembra un terreno abbastanza agevole qui, però per esempio uno vai come si fa? Come si fa a far passare questo messaggio? Non lo so, lo posso appoggiare qualche parte? Sì, forza a mano. Ok. Allora, per me la militanza è presenza, no? Ma presenza non solo nei fatti, ma la presenza pure di un percorso che ti porta, a destrutturare totalmente te stessa e ad avere un livello di consapevolezza che ti fa riconoscere il tuo nemico. E questo secondo me è la militanza, e secondo me sta roba nella militanza non c'è, cioè nel senso c'è tanto parlare, anche voglia di fare, di pancia, come dicevi te, però c'è una grande difficoltà nella critica e nell'autocritica, cioè l'autocritica, per come la vedo io, è praticamente inesistente, e c'è un problema con la critica, cioè... Allora, perché il percorso individuale? Perché abbiamo talmente tanto introiettato questa cultura, perché noi ci cresciamo tutte e tutti, quindi l'abbiamo interiorizzata, la dobbiamo accettare sta cosa e accettare anche le contraddizioni per liberarci e per destrutturare sta roba. E mi sono pure persa nel frattempo, non mi ricordo che stavo a dire. La critica e l'autocritica, c'è un problema con la critica, perché la critica ce la viviamo come se fosse una cosa che ti mortifica, che non ti fa crescere, tutto. Invece comunque la critica, ma perché se la abbiamo nel personale, perché siamo tutti pieni di noi stessi e non riusciamo ad andare oltre. E invece la critica invece deve essere in qualcosa che ti porta poi a fare una proposta, a essere propositivo, cioè, quindi abbiamo un problema, cioè questo problema o risolviamo, cioè andiamo avanti nelle cose, invece cioè, se fossilizza nella critica, non si fa autocritica assolutamente, che invece è un passaggio per me importante, si crea questo spaziamento pure che dici te, perché magari se ritroviamo a parlare, tra l'altro se parliamo sempre tra di noi, perché poi in mezzo alla strada non ci stiamo più, e quindi con la gente non ci parliamo e probabilmente non sappiamo neanche come parlarci poi con le persone, e quindi cioè, stiamo là che ci rigiriamo e ci sentiamo pure frustrate magari, certo, perché è tanta energia, comunque è tanta energia che ci metti e che non sono neanche infinite, cioè hanno un limite. Secondo me, per esempio, quello che diceva Margherita, no? del lavoro all'inizio, no? Cioè dire io sto all'università, però cioè, magari se ci fosse qualcosa, una battaglia, un qualcosa, io avrei più spazio, avrei un approccio diverso, no? E riuscirei pure a sentirmi più libera di poter portare pure nel mio posto di lavoro, no? Quello che penso. E, secondo me l'università, cioè qua ancora meglio, cioè nel senso di posti di lavoro magari può essere difficile, Sì, ma vuol dire uscire proprio dal sistema, cioè il fatto, il certo. passaggio è uscire totalmente dal sistema, perché fino a quando ci stai dentro, alla fine potremmo parlare di quello che ci pare, ma alla fine li proponiamo sempre la stessa dinamica, perché ci stiamo dentro. Quindi la rottura, secondo me la rottura è questa, che non è immediata, perché è talmente, cioè, ha voglia a levar roba. Però come fai a lavorare completamente in sottrazione in questo sistema? Cioè prima no, i meccanismi di inclusione e esclusione erano più stabili. Cioè, se tu stavi dentro, no? Lavoravi, stavi dentro, quindi probabilmente diventavi, diciamo, riproducevi, no? Cioè lei non riesce a uscire fuori dalla sua classe borghese, no? Anche se fa in fabbrica non è quella il fatto. Adesso è molto più rapido, no? Cioè adesso tu sei cooptato dal sistema e risputato, cooptato e risputato, e quando stai fuori non c'hai proprio un cazzo, cioè non c'hai una casa, non c'hai, no? Cioè ci sono dei problemi proprio, diciamo, di esistenza concreta, certo. e pratica, per cui lavorare solo in sottrazione, no? Alcuni compagni alla fine degli anni 70 hanno fatto questa critica, no? Dicendo perché poi siamo stati sconfitti, sì, ci hanno menato, sì, ci hanno incarcerato, ci hanno dato gli ergastoli, quello che te pare. Però è successo anche che molti compagni hanno scelto il lavoro, no? Va bene. Però noi siamo in un momento in cui questa fuga in avanti la possiamo fare, la facciamo in quattro. Prima dicevi ci parliamo tra di noi e non siamo per strada, no? Ma non ci parliamo manco tanto tra di noi. No, ci parliamo tra di noi nel senso che ci incontriamo, ci confrontiamo. Ci confrontiamo, bla bla bla. Veramente. Cioè non è che dici tiriamo fuori delle nuove idee, delle nuove pratiche, cioè alla fine facciamo sempre le stesse cazzo di proposte, che sono sempre più rituali, che sono sempre più stanche, capito? Che sono, perché non è che proprio ci parliamo tra di noi, no? Io non ce l'ho più come. Guarda. Cioè, non vedo più tutto sto. Arise, ye prisoners of want. For reasons in revolt now thunders, and at last ends the age of Kent. Away with all your superstitions, servile masses, arise, arise. We'll change henceforth the old tradition, and spurn the dust to win the prize. So comrades, come rally, and the last fight let's face. The internationale unites the human race. Comrades, come rally, and the last fight let's face. The internationale unites the human race. By reaction on tyrants only will make war. The soldiers too will take strike action. They'll break the ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, they soon shall hear the bullets flying. We'll shoot the generals on our own side. Comrades, come rally, and the last fight let us face. The internationale unites the human race. Comrades, come rally, and the last fight let us face. The internationale unites the human race. No savior from on high delivers. No faith we have in prince or peer. Our own right hand the chains must shiver. Chains of hatred, greed, and fear. Ere the thieves out with their booty, give to all a happier lot. Each at the forge must do their duty, and will strike while the iron is hot. So come.